Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un pomeriggio targato Ibrahimovic, se è vero che intorno alle 15.30, purtroppo lo dico egoisticamente, non in tempo, almeno salvo sorprese, per darne conto nel corso di questo appuntamento, arriverà intorno alle 15.30, ricevo la sentenza della disciplinare e si saprà una volta per tutte se Ibrahimovic potrà o non potrà essere in campo dopodomani contro la Juventus. Meglio sì o meglio no? Potrebbe essere un piccolo tema, insomma, no? per la puntata di oggi, partendo da una frase di Barzagli che ho letto stamane in un'intervista su Repubblica. Barzagli dice: cambia per il Milan più che per noi, ma aggiunge una notazione che mi è sembrata interessante, perché la trovo molto vera. Quando Ibrahimovic c'è, il gioco del Milan, quando Ibrahimovic non c'è, il gioco del Milan è più imprevedibile. Quando però c'è, è imprevedibile lui. E mi sembra un ragionamento sottile e che fotografa abbastanza bene la differenza tra il Milan con e senza Ibra. Fatto, tra l'altro, fatta questa distinzione, questa riflessione da un avversario diretto di sabato sera, ma anche da un difensore che ha ritrovato in pieno la sua caratura e quest'anno è, direi, con Thiago Silva del Milan, direi che è il miglior centrale del campionato. L'ultima serata di andata degli ottavi di Coppa Campioni, dunque la sconfitta dell'Inter, immeritata, ma insomma fino poi a un certo punto, perché quando negli ultimi minuti te li tiri in casa finisce che anche i brocchi prima o poi possono farti gol. Ieri sera è andata esattamente così, una squadra, non dico una grande squadra, perché in questo momento l'Inter non lo è e non lo può essere, ma insomma in capo a una partita così mediocre, così mal giocata da tutte e due, visto che gli altri non sono in grado di schiacciarti e di importi chissà quale pressione, insomma, la palla si cerca di difendersi nel calcio moderno, almeno intorno alla linea di metà campo e non intorno alla linea all'area di rigore, se no poi arrivano le sorprese finali, ingiuste, immeritate, fanno così quanto si vuole, ma non dico cercate, ma in un certo senso, appunto, tirate in casa, involontariamente. Il commento di Ranieri. Prendi gol al 93esimo, i sei masse li porta via al vento. Ho giocato con quegli uomini là perché avevo bisogno di giocatori agili, bravi tecnicamente nell'1-2, e quei tre giocatori mi davano ampie garanzie. Manca la fiducia e quel pizzico di fortuna che in questo momento non ci accompagna. Questo è il calcio, stiamo attraversando un periodo negativo, ma soltanto per quanto riguarda i gol che ci fanno, perché la partita per me questa sera è stata una buona partita dove noi abbiamo creato qualcosina in più di loro. E purtroppo è stato un risultato beffa, perché sicuramente non meritavamo di uscire sconfitti qua. Qualcosina, ma proprio qualcosina, più di loro. Io credo che non ho ancora i dati d'ascolto di ieri sera, ma immagino sia una di quelle serate in cui se c'è stato un buon numero di spettatori è perché da addormentati è difficile manovrare il telecomando, no? Credo che proprio fosse uno di quei classici casi. A me, lo confesso, prima della metà del primo tempo è successo con un discreto blackout fino a un certo punto della ripresa. Il commento di Didier Deschamps. È difficile essere obiettivo al 100%, credo che è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto un Inter superiore a quello che ho visto le ultime settimane, pareggio ci poteva stare, meglio per noi, così abbiamo almeno un gol di vantaggio, ma se non prendiamo gol ci qualificheremo, però non credo che sarà sufficiente, cercheremo anche di cercare un gol. Il Marsiglia ha impostato certamente una partita intelligente, la sua qualificazione se l'era nel girone eliminatorio, se l'era maturata fuori casa, se l'era meritata fuori casa. È una squadra più da trasferta che da casa, e lo si è visto chiaramente ieri sera, perché prendere l'iniziativa è decisamente un'altra cosa. Ha giocato spudoratamente per lo 0-0, provandoci entro certi molto moderati limiti negli ultimi 10 minuti di quarto d'ora, ed essendo fortunata, premiata alla fine da quel colpo di testa. Mi pare che proprio i due risultati dell'ultima delle quattro serie di Coppa Campioni giocate fin qua negli ottavi abbia prodotto le sorprese principali, non in parte quella dell'Inter, ma soprattutto quella della sconfitta del Bayern a Basilea. Ne chiedo conferma al ministro degli esteri. Buongiorno Fabio Taregni. Buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. È la sconfitta della finale di Madrid, visto che hanno perso l'Inter e il Bayern di Monaco. Devo dirti che avendo provato, riuscendoci in parte a vederle tutte e due, mi è sembrato che la partita di Basilea sia stata molto più divertente, con parecchie occasioni, alcune magari in maniera provocate da errori, ma comunque sia stata una partita molto più divertente. Quella del velodromo è stata onestamente brutta. La più brutta, scrive Max, di quelle giocate finora in Champions, non gli si può dar torto. No, bisognerebbe averle viste tutte, ma partita. Vabbè, visto anche quelle, non essersi addormentati, come ho appena confessato di aver fatto, ma insomma. No, infatti il rischio della biocco era fortissimo. Per quanto riguarda la partita di Basilea, giocata su un campo bruttissimo, però sinceramente il St. Jakob non era presentabile. Non credo che il Bayern di Monaco e l'Inter non siano in grado di ribaltare, anzi, credo che abbiano tutte le possibilità. Io devo dirti, mi aspettavo un Basilea così, nel senso che il Basilea aveva già fatto vedere nella fase a gironi di essere una squadra seria, di essere una squadra non lì per caso, di essere una squadra che ha eliminato il Manchester United, di essere una squadra quadrata, giusta, intelligente, con buoni cambi dalla panchina, ed è evidente che il Bayern di Monaco è in un momento di difficoltà, questo certo. non è più una notizia. Tra l'altro, oltre al gol della vittoria nel finale, hanno spaccato un palo una traversa gli svizzeri, quindi potevano anche fare di più. Mi fa notare Franco Piantanide che nessuno meglio di Vogel, tecnico del Basilea, conosce i segreti del Bayern, perché ci ha lavorato dal 97 al 2008 in quel settore giovanile. Sì, è vero. Quindi i Müller, prima ancora i Lame, eccetera, sono prodotti sì, suoi. Grande quadratura, grande esperienza, i due Frey sono una bella garanzia, Shaqiri è un giocatore che il Bayern di Monaco ha già comprato per l'anno prossimo. No, bene, cioè se stiamo cercando un parvenu negli ottavi di finale, non guardiamo al Basilea, perché il Basilea al di là di ieri, sarebbe troppo facile dirlo oggi, comunque è una squadra che a questo livello ci può ancora stare, magari diciamo che non i quarti potrebbero essere troppo, però gli ottavi li può giocare, e in effetti lo ha fatto molto bene. Senti, prima di azzardare un mini bilancio di queste partite di andata, resterei un attimo sul Marsiglia. Per caratteristiche a me pare davvero che il Marsiglia abbia giocato realisticamente per lo 0-0, calcolando di essere una squadra da trasferta. Poi a questo punto, avendo ottenuto l'1-0 e potendosi permettere un pareggio fuori casa, a maggior ragione con gol, insomma, ho l'impressione che sia diventato un ostacolo alto per l'Inter. È diventato un ostacolo alto per due motivi. Il primo è perché comunque l'Inter dovrà fare due gol senza subirne, e questo stiamo parlando di una squadra che non segna da 381 minuti. Cioè 381 minuti sono un digiuno pesante. E quindi oltretutto è una squadra che ne sta prendendo, tanti o pochi non sta a medirlo, ne sta prendendo, ed è in una china che, per carità, può anche tranquillamente essere superata, come l'Inter l'aveva superata a novembre e dicembre. Quello che preoccupa, io credo, sia da un lato la condizione generale della squadra, che si sta abituando a questo declino, e in questo momento mi sembra davvero più psicologica la spiegazione. Da un altro lato c'è un allenatore che probabilmente ha un po' confuso i giocatori con continui cambi di modulo, probabilmente non ha dato un'idea di gioco, non che ce ne siano molte di squadre in giro con un'idea di gioco, ma certamente l'Inter non ha minimamente un'idea di gioco. Con l'aggravante di avere giocatori un po' stanchi, un po' logori, quelli che dovrebbero dare il cambio di passo giocano da 4:30. Si chiamano Zarate. Guarda, io ieri sera ho commesso un errore gravissimo, perché quando ho visto i giocatori scendere dal pullman, e la mia collega Cristiana mi ha detto: beh, dai, diamo un'occhiata, lo facciamo sempre, insomma, l'ufficio facce, le espressioni facciali. Che espressione ha Zarate? Io ho detto: beh, ha l'espressione di uno che andrà in tribuna. Ovviamente ho sbagliato, devo dirti che ci avessi preso forse l'Inter era meglio prendere. Il tuo era non so quanto involontariamente, sarebbe un augurio per la povera Inter, evidentemente. Peccato che Ranieri non fosse collegato e non l'abbia colto. Questa mi è sembrato un errore di quelli da matita blu. Intervallo e poi un bilancio di questa serata, perché qualche motivo di interesse, al di là dell'esaltazione di Napoli e Milan, qualche motivo di interesse anche più generale c'è. Beh, per usare questa distinzione che ci è cara, no? Tra la Champions League d'autunno e la Coppa Campioni di primavera, mi pare che mentre nella prima fase si era iniziata l'opera di demolizione delle squadre inglesi, ma davvero la più sorprendente con i due Manchester, questi ottavi di Coppa Campioni stanno continuando la mica male però. Con più facilità, perché sono rimaste due squadre oggettivamente più scarse, oggettivamente sì, rispetto sì, più alle altre debole. Due. Ma uno può sempre dirti: beh, però loro ci sono e le altre due no. Io eccepisco il fatto che Arsenal e Chelsea insomma siano uscite da dei gironi complessivamente molto più facili rispetto a quello del Manchester City, tenendo anche presente che il Manchester City non ha una caratura europea così alta, se la sta acquisendo e farà molta paura l'anno prossimo. E la vera sorpresa è il Manchester United, che aveva fatto 3 finali in 4 anni, certo. E quindi era una squadra che non ti aspettavi uscisse con il Basilea. Io credo che sia una stagione di passaggio, probabilmente arrivata con un anno di ritardo. Io sinceramente a questi microfoni l'avevo già detto l'anno scorso che mi aspettavo una forte flessione. L'anno scorso ci fu, ma neanche così tanto, e fu in parte coperta dalla finale dello United. Complessivamente credo che sia anche uno schiaffo giusto che ogni tanto sia opportuno prendere. Vedo complessivamente una Champions nella quale o ci sarà una finale di restaurazione, cioè Barcellona-Real Madrid, perché sono nettamente le più forti, secondo me nettamente, certo, le più forti, oppure se il calendario le metterà di fronte prima, magari già ai quarti, allora il sospetto che si possa essere davanti a una stagione come quella del 2004, quando in finale arrivarono Porto e Monaco, e allora secondo me lì ci potremmo arrivare, con formazioni che potrebbero essere anche italiane, esatto. perché il Milan e il Napoli in casa sinceramente possono aver paura di poche squadre. Non c'è dubbio. Dunque, c'è un dato statistico ancora curioso. L'anno scorso negli ottavi d'andata c'era stata una sola vittoria, c'era stata una sola vittoria in casa dell'Arsenal sul Barcellona, tra l'altro. Quest'anno c'è stata una sola vittoria in trasferta del Barcellona a Leverkusen, quindi è cambiato, è saltato il fattore campo, si è rafforzato il fattore campo rispetto allo scorso anno. Ma il dato davvero curioso che rafforza quello che stavi dicendo fino un attimo fa, il dato conclusivo mi pare di questa conversazione, di questa messa a punto dopo l'andata degli ottavi, è che il coefficiente stagionale UEFA per club vede il Napoli salito al terzo posto nel ranking, alle spalle di Real e Barcellona sono in testa con 24.000 eccetera punti, che sono i conteggi che fanno loro. Il terzo posto assoluto è del Napoli, e allora questo comincia a lasciare intravedere davvero che il momento decisivo di questa Coppa potrebbe davvero essere quello del prossimo sorteggio. Non ci sono molte squadre, io credo, che abbiano la caratura tecnica e anche agonistica del Napoli in attacco. Napoli paga un po' di dazio in difesa evidentemente, ma in attacco non ci sono molte squadre a livello di questi ottavi di finale, se escludiamo naturalmente Reale, Barcellona, certo. E pochissime altre. E quindi la sensazione netta che, soprattutto nel momento in cui il Napoli dovesse avere una condizione che mi sembra stia andando in temperatura, che sia in decisa crescita, ecco che il Napoli può diventare un cliente pericolosissimo, soprattutto se riuscirà ad essere abbastanza libero di testa e conscio del fatto di aver già fatto più di quello che si pensava. E quindi potendo giocare con la libertà di dire: anche se mi eliminano a questo punto, comunque ho fatto una grande cosa, il Napoli diventa un cliente pericolosissimo. Intendiamoci, cominciamo ad andare ai quarti, perché non è neanche così difficile, secondo me, però non è una passeggiata, facciamola con la guardia alta. Le passeggiate di salute si fanno altrove, non a Stamford Bridge. No, ma si fanno dopo aver fatto la doccia, esatto. non prima. Grazie Fabio. Un abbraccio, grazie Gigi, ciao a tutti. Alla prossima settimana. Però è vero che qualcosa sta maturando e che sarà il, questa volta il giorno del sorteggio, che sarà il venerdì successivo, come sempre all'ultimo mercoledì agonistico, e quindi poco dopo metà marzo. Sarà significativo perché intanto, come da qualche anno a questa parte ormai, si sorteggia il tabellone a quel punto, quindi non soltanto i quarti di finale ma già gli accoppiamenti automaticamente delle semifinali. Se Real e Barcellona dovessero finire dalla stessa parte del tabellone e una di queste due italiane almeno, o tutte e due, riuscire a stare dall'altra parte, parlo di Milan e Napoli, beh, effettivamente qualcosina potrebbe anche succedere. Non so se qualcuno vorrà intervenire, adesso tra poco cominciamo con le vostre telefonate, se qualcuno vorrà intervenire anche su Ibra sì, Ibra no. Milan-Juve nel frattempo, in attesa appunto di questa sentenza disciplinare, Milan-Juve è stata affidata a Paolo Tagliavento di Terni, questo l'arbitro della super sfida di sabato sera. Massimo ha chiamato la provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, niente, io volevo parlare un attimino, vabbè, della partita di ieri sera e più in generale di Ranieri, insomma. Vabbè, niente da dire riguardo all'uomo, che per amor del cielo. Però mi sembra che a questo signore manchi proprio la mentalità vincente da allenatore, insomma. Vedendo un attimino lui, e vabbè, se parliamo di vincenti viene per forza Mourinho, secondo me ieri sarebbe finita in un altro modo, perché a prescindere da come si comincia, che la partita si può sbagliare, ci mancherebbe, anche l'allenatore può sbagliare, però dopo mezz'ora, vedendo la pochezza degli avversari, io penso che il signor Mourinho, che ce l'ha fatto vedere più di una volta, avrebbe fatto qualcosa per portarla a casa la partita, ecco. Più, insomma, mi ricordo che qualche volta abbiamo finito in quattro attaccanti più Stankovic dietro, più Materazzi che prendilo e mettilo nell'area di rigore avversaria, poi magari prendi la manita, perché poi ci sta anche quello, però almeno io cerco di portarlo a casa. Beh, insomma, era un'altra squadra, erano altri momenti, c'era un'altra salute psicofisica nell'Inter. L'Inter di ieri sera mi sembrava l'Inter di questa fase è una squadra che può giocare soltanto allineata e coperta, e semmai Ranieri schierando, a parte la scelta delle pedine, ma insomma schierando un attaccante come Forlan, un presunto attaccante come Zarate e più Sneijder, non mi pare che abbia dato alla squadra e agli avversari grandi segnali di resa preventiva o di... ha messo in campo quello che poteva. Io non ce l'ho con Zarate personalmente, ci mancherebbe altro, ce l'ho con quello che non sta facendo vedere da almeno due stagioni a questa parte, e quindi mi domando se Zarate sia peggio di Alvarez, faccio per dire, no? Un giocatore su cui a un certo punto Ranieri aveva puntato e in due o tre circostanze vedendole anche ricambiato in maniera abbastanza brillante, cioè se si trattava di tenere un po' di più palla, provare a puntare l'uomo cercando di creare una situazione o provando a trovare un 1-2 con Sneijder più indietro, con Forlan davanti, ma insomma io credo credo di ricordare che per esempio sto Alvarez, che poi si è involuto anche lui, ok, ma qualche volta l'uomo lo salti. Zarate credo che l'ultimo salto di uomo risalga indietro, abbastanza indietro, e comunque con la maglia della Lazio in ogni caso. Riccardo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno dottore. Ascolti, dottore, io sono un tifoso obiettivo dell'Inter e vista ieri la partita dico che siamo... più di così non possiamo fare. Io l'Inter presumo che abbia dato tutto in questi anni, ora è il momento forse di rifare un nuovo ciclo con nuovi giocatori e sperando che siano più giovani. E proprio per questo, siccome sono convinto che la prossima Champions League l'andremo a fare sicuramente dal 2014 in su, perché il prossimo anno non la faremo, grazie all'Inter Club di Capannoli e al mio amico Maurizio, andiamo a vederla a ritorno. secondo lei, cioè, come fate il saluto, no, prendete congedo temporaneamente per un annetto e mezzo dalla Champions League, mi pare di capire, no? Questa è l'intenzione. Sicuramente. Mestamente. Beh, Riccardo, credo che sia un'ipotesi realistica, poi ovviamente ci metterete anche un carico di almeno un pizzico di scaramanzia, però insomma, mi sembra a questo punto l'ipotesi più realista, perché se perdi una partita, se perdi anche una partita come quella di ieri, effettivamente diventa dura, viene giocata con un altro temperamento, un'altra concentrazione rispetto al Bologna e al Novara. Non dico che il Marsiglia non valga Bologna e Novara, ma il Novara, il Bologna di questo periodo, non so se il Marsiglia tecnicamente lo valga. Quindi effettivamente perdere anche una partita così e perderla proprio alla fine non è un bel segno. Tito, provincia Pavia, buongiorno. Buongiorno, sono anch'io un tifoso obiettivo, per quanto possa sembrare un ossimoro. Ossimoro, bravo. Ieri ho visto la partita dell'Inter, che comunque mi piace vedere il calcio, pensi che un anno ho fatto l'abbonamento all'Inter, anni fa, 20 anni fa, pur di vedere le partite. No, volevo intanto una battuta, Tavelli prima ha detto che ha sbagliato alla grande perché era, guardando la faccia di Zarate, era la faccia della tribuna. E probabilmente non ha sbagliato Tavelli, nel senso che Zarate non si è accorto che era in campo, con la faccia della tribuna. E secondo me Ranieri avrà le colpe, però questa squadra è proprio spremuta, cioè non vedo più quello che... Non giocano più come 2 anni fa, come 3 anni fa. No, no, ma difatti, ma quando io dico... Devono proprio far piazza pulita, avrebbero dovuto far piazza pulita dopo la finale. Ah boh, certo. Quello è stato il momento storico in cui farlo, però sono occasioni che bisogna cogliere, in quell'attimo è difficile però da cogliere, perché nessuno... Io non ne ricordo che ne abbiano di società che hanno saputo cogliere quegli attimi, no, per rinnovare profondamente. E quindi sono errori che attraverso cui sono passati più o meno tutti. Una serie di ascoltatori, per esempio Andrea da Como, Marco da Massa Carrara, Marione da Milano, Mauro da Vicenza, ricordano tutti una stessa cosa. Ricordano che la Juventus del 96, che aveva vinto la Coppa dei Campioni finale con l'Ajax, cedette Vialli e Ravanelli, destinazione Inghilterra. Non solo, un altro ascoltatore aggiunge Vialli, Ravanelli e Susa, e Paolo Susa, dopo quel, cioè a dimostrazione del fatto che si possono anche vincere le coppe e non farsi travolgere ad ogni costo dalla gratitudine. Però è un'eccezione quella, perché, ripeto, la regola vale anche per le nazionali, pensate a Berzot dopo l'82, vale per le nazionali, vale per le squadre di club in genere. In genere la vince la riconoscenza sulla razionalità, no? sul bisogno forse che ci sarebbe davvero di innovare, il Milan del 2007, eccetera, chissà quanti altri esempi ancora. Federico dalla provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, dottor Ganzini, volevo fare una considerazione, non era sull'argomento che stiamo discutendo, ma sul prossimo incontro tra il Milan e la Juve. Io sono milanista e sinceramente voglio parlare di Pirlo, che Pirlo sinceramente tutti lo ammirano, l'ho ammirato anche io, e sinceramente che diciamo col tempo un pochino è andato a scemare il suo aspetto fisico, però adesso vedo che con la Juve si è rigenerato in una maniera eccezionale, effettivamente non lo riconosco più. Un Pirlo del genere, anche Allegri lo vorrebbe in squadra. Effettivamente è cambiato moltissimo. Al di là poi, del... Pronto? Sì, pronto. Guardi, Allegri in verità non lo vorrebbe per niente, non sbagliando o indovinando. Allegri ha fatto una scelta. Secondo lui, per le caratteristiche del Milan, per le caratteristiche degli altri giocatori, Pirlo non era il tipo di centrocampista adatto, questo senza minimamente mettere in discussione le qualità di Pirlo. Per le qualità di Pirlo invece i cursori e gli incursori della Juventus e il gioco che Conte aveva in testa era esattamente quello che che ci voleva. Tutto questo prescinde dalla caratura di Pirlo, che insomma non è che adesso lei lo riscopre adesso, ma insomma io credo che Pirlo non si sia mai eclissato. Pirlo ha avuto una stagione un po' difficile anche per ragioni fisiche. Dopodiché il Milan ha fatto una scelta, la Juventus ne ha fatta un'altra. Finora mi pare che la Juventus di quella scelta non si sia pentita affatto. Il Milan non se ne è pentito fino a questo momento, visto che comunque senza Pirlo praticamente lo scorso anno ha vinto il campionato, e quest'anno è in lizza per vincere sia il campionato che teoricamente anche la Champions League, e quindi sono tutti direi felici e contenti, anche Pirlo che ha trovato una nuova grande squadra e nuovi grandi stimoli. Credo che fin qui sia una vicenda a lieto fine per tutti, fin qui. Poi adesso magari da qui in avanti vediamo chi avrà avuto più ragione, ma finora hanno avuto certamente ragione entrambi. Da Torino ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Oh, guardi, io vi voglio fare una considerazione sulla riconoscenza dei presidenti e la non riconoscenza dei tifosi riguardo all'Inter. Io sono tifoso milanista e mi aggancerei anche appunto al discorso dell'ascoltatore precedente, nel senso che il Milan, dopo aver vinto la Coppa, l'ultima Coppa, che chissà quando ne vedremo un'altra, ha fatto l'errore che ha fatto l'Inter, cioè di non vendere i giocatori più importanti. Vedi appunto Pirlo, al tempo c'era il Chelsea che offriva 20-25 milioni di euro e l'abbiamo praticamente regalato alla Juventus. Quindi io dico che i tifosi, dopo che si è vinto una Coppa, devono capire che per ritornare a vincere bisogna fare dei, tra virgolette, dei sacrifici, vendere i giocatori più importanti, perché ovviamente perdono gli stimoli, come è successo all'Inter, poi ovviamente si sono invecchiati. Il Milan sì. È esattamente la stessa identica cosa. Sì, meno sono abituati a vincere questi giocatori e più questo fenomeno può accadere. Se hanno un discreto collaudo al successo, alla vittoria, al trionfo, la chiami come vuole, può darsi che accada un po' meno, ma certamente la vittoria più la vittoria è in attesa, indipendentemente dalla qualità del giocatore, più questo effetto rischia di manifestarsi. Sentiamo Reia adesso, perché mi pare che dunque stasera si giocano i ritorni di Lazio-Udinese, la Lazio sul campo dell'Atletico Madrid, l'Udinese a Salonicco dal PAOK, e sono tutte e due ritorni abbastanza, è difficile quello dell'Udinese, è proibitivo certamente quello della Lazio che parte da un 1-3 in casa, ma nella Lazio è deflagrato il caso Reia, insomma, che stasera sarà per l'ultima volta sulla panchina della Lazio, ma già da separato in casa. Sentiamo la sua spiegazione. Posso dire semplicemente che c'è stata una divergenza di opinioni, chiuso. Fine. È chiaro che dal punto di vista morale non siamo in grandissima forma, però questo impegno secondo me va onorato e bisogna cercare di fare il meglio possibile. Penso e mi auguro che abbiamo smaltito un po' di fatica soprattutto, e soprattutto che non capitino ancora ulteriori problemi, no, dal punto di vista fisico. Ecco, questo è l'augurio che mi faccio, oltre che di fare una buona prestazione indipendentemente dal risultato. E questo era il Reia, diciamo, sotto controllo. Poi ce n'è un'altra versione invece in aeroporto, in cui è un po' meno controllato, ma insomma, possiamo anche risparmiare di mandarlo in onda, perché trattasi di un non più giovane signore che ha avuto qualche problema di stress e qualche buona ragione evidentemente per decidere di abbandonare, di lasciare la Lazio. Scrive Mauro Lena da Conegliano Veneto: credo che non bisognerebbe essere geni aver fatto il corso allenatore a Coverciano per fare l'ultimo cambio a disposizione, per perdere tempo e spezzare così il ritmo dell'assalto finale del Marsiglia. Non crede che da questo punto Ranieri abbia una colpa specifica? No, caro Mauro, nel modo più assoluto, perché lei parte da un presupposto sbagliato. L'assalto finale del Marsiglia, l'ha vista la partita? Cioè, nell'assalto finale del Marsiglia qualcuno forse è riuscito a risvegliarsi. Io lo confesso, per la terza volta c'ero riuscito già una mezz'oretta prima, ma non era di quelle cariche Cioè, io credo che sarebbe stato un errore regalare 30 secondi in più al Marsiglia per un cambio, semmai. Perché proprio se non c'era nulla da spezzare, se non c'era un assalto da spezzare, era il caso di ieri sera. Il Marsiglia non stava facendo assolutamente nulla. Tra gli sbadiglianti, secondo me, c'era Julio César in porta, perché se su quel mancino, quell'esterno mancino da fuori dell'uomo che poi ha segnato il gol, Julio César non fosse stato già pieno di sbadigli, io credo che la palla l'avrebbe bloccata con grande disinvoltura, non l'avrebbe messa in corner e cosa, ma era il classico tiro di alleggerimento di chi non sa, dove battere la testa, no? Nonostante il pubblico cerchi di trascinarti appunto all'assalto, non c'è stato nessun assalto e non c'era nessun bisogno di surgelare il gioco con un cambio che semmai ti avrebbe per l'appunto allungato ancora quella tristezza di partita. Maurizio Verona, buongiorno. Sì, dottor Ganzini, buongiorno. Sono tifoso dell'Hellas, però volevo parlare della partita dell'Inter di ieri. Sì. Ecco, secondo me non bisogna addossare la colpa a Ranieri, perché praticamente è arrivato che si è trovato con una rosa di giocatori è già un po' in difficoltà. E secondo me trova difficoltà anche a fare formazioni, perché specialmente nel reparto offensivo secondo me ha dei giocatori troppo simili, e quindi magari hanno problemi di compatibilità, nel senso nel contrastarsi davanti con i movimenti. Ieri ho visto bene anche Forlan, che aveva tutti gli spazi, cercava gli spazi larghi, correva a destra e a sinistra. E secondo me il problema sono i giocatori. Secondo me si è rotto qualcosa di uno spogliatoio, non sono più uniti come erano all'inizio, insomma, della stagione. Beh, all'inizio della stagione non è che fossero poi così uniti, come erano uniti qualche tempo fa. Forlan in effetti ieri sera ha giocato una buona partita, infatti dopo ieri sera, quando si dice che l'Inter purtroppo non ha avuto a disposizione Forlan, dopo ieri sera si potrebbe anche dire che è stato Forlan a non avere molto a disposizione l'Inter, no? Perché più che palle impossibili, più che sfiancarlo come un cavallo da tiro avanti e indietro su quel fronte avanzato, non hanno fatto, ma senza mai assecondarlo, senza mai mettergli qualcosa di interessante, con l'eccezione di una bella palla di Cambiasso, su cui oggettivamente Forlan avrebbe potuto fare meglio, ma anche lì bisogna insistere con rifornire le bocche da fuoco, no? Perché Milito, prima di tornare a essere il centravanti che era stato, io non ricordo quanti gol si è mangiato ben più grosso di quello di essere di Forlan davanti alla porta. Se ti capita un'occasione ogni morte di Papa, insomma, diventa più probabile ancora sbagliarlo o comunque non riuscire a trasformarla come si deve. Da Padova, Saverio, buongiorno. Buongiorno, dica. Io volevo da lei, se era possibile, una spiegazione logica, ma più che logica, tecnica, per quanto riguarda il crollo dell'Inter, perché se noi vediamo che a novembre-dicembre c'è stato, diciamo, una ripresa dell'Inter e poi c'è stato un crollo, ma non graduale, ma da una partita all'altra proprio la squadra ha avuto un crollo. Cioè io, nel mio piccolo, di quello che ne so di calcio, non riesco a darmi una spiegazione. Io penso che oltre a una spiegazione tecnica qui c'è un problema forse di spogliatoi, non lo so, non ho idea. Se lei mi può dare una spiegazione gentilmente. No, Saverio, non a saperlo, no? Se lo sapessero dovrebbero essere gli interessati, evidentemente i primi e gli unici, no? A sapere cosa può essere accaduto. Io credo così, un po' semplicisticamente, credo che l'Inter non avesse fatto una rimonta ben al di là dei suoi meriti e delle sue risorse, e cioè che, così come era stata indubbiamente anche bersagliata dalla mala sorte nella prima fase, insomma, ha viaggiato con il vento in poppa, ma altro che in poppa, per qualche domenica di troppo. Questa cosa è culminata in una vittoria sul Milan che ha completamente riaperto i giochi. Probabilmente in quel momento questa squadra, che quest'anno è una squadra malata, ha creduto, si è illusa di essere davvero guarita, e questo è stato il vero inizio della fine che al momento parrebbe definitiva. Poi nel calcio di definitivo non c'è mai nulla, per fortuna in qualche caso e per sfortuna in qualche altro. Il 23 febbraio, nella libera interpretazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 febbraio 1966. A Wembley, in un'amichevole di preparazione ai mondiali, l'Inghilterra affronta la Germania Ovest. La squadra di casa vince 1-0 con un gol di Nobby Styles, il suo primo e unico in nazionale. Nell'occasione il CT Alf Ramsey fa esordire l'attaccante del West Ham Jeff Hurst, candidato a far parte della spedizione inglese come riserva di Jimmy Greaves. Il 23 febbraio 1966 l'ipotesi che Inghilterra e Germania Ovest si sarebbero ritrovate a Wembley poco più di 5 mesi dopo per la finalissima era immaginabile, molto meno che Jeff Hurst avrebbe trascinato i ragazzi di Ramsey al trionfo con 3 gol, fra i quali una rete fantasma che passerà alla storia come uno degli episodi più controversi nella storia dei mondiali. Ah, di sicuro, infatti ancora se ne parla e qualche annetto è passato. A proposito di allenatori, il quotidiano spagnolo Marca ha fatto un sondaggio a cui hanno risposto in tantissimi tifosi del Barcellona sul sostituto ideale di Guardiola nel caso in cui, non poi così remoto, Guardiola decidesse davvero di prendersi un anno sabbatico piuttosto che di correre altre avventure. Chi vorreste sulla panchina del Barcellona? E ovviamente uno si immagina di sentire i nomi dei più titolati tra gli allenatori al mondo, nemmeno per idea. I tifosi del Barça sono talmente legati alla loro masia, cioè alla loro cantera, al loro vivaio, che hanno indicato come primo candidato un certo Carreras, Marc Carreras, che allena il Sabadell. Il Sabadell è una squadra di seconda divisione che è alla periferia, alle porte di Barcellona, e che è un adepto, no, di Guardiola dintorni. In alternativa Luis Enrique, che era già in precedenza, prima di venire alla Roma, designato come possibile erede di Guardiola, e questo mi sembra un dato comunque interessante. Ha chiamato Luca da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, due considerazioni sull'Inter. La prima su Ranieri, che è oggettivamente un allenatore non vincente, lo dimostra la sua carriera e più in generale lo dimostra il fatto che io fatico a trovare un allenatore che abbia iniziato a vincere dai 60 anni in su. Sfido lei a trovarne uno che non sia un allenatore di non mi sfidi, perché quando io sento allenatore vincente o come un ascoltatore prima mentalità vincente ho attacchi di orticaria e quasi di panico, quindi non sono in grado, non mi ritengo all'altezza. Ma chiunque le venga in mente ha iniziato a vincere prima, almeno dai 50 anni in su, quindi certo, dimostra che Ranieri non è un vincente. E ancora di più viene evidenziato il fatto che l'Inter abbia gestito in maniera assurda la scelta degli allenatori negli ultimi anni, comprando allenatori non adeguati alla squadra o viceversa, non prendendo allenatori vincenti, dalla mentalità vincente. Poi un giorno o l'altro qualcuno di voi mi spiegherà, mi farà un bel elenco di allenatori dalla mentalità perdente, perché se no non ha senso, no, questo discorso. Cioè se ci sono questi eletti al mondo che sono i cosiddetti allenatori con la mentalità vincente, questo automaticamente significa che ne esistono di mentalità perdente. Ora, dato che io di allenatori con questa mentalità, e cioè che abbiano strutturato il loro lavoro, il loro modo di essere, la loro professione sulla mentalità perdente, non ne conosco, mi piacerebbe prima o poi trovarne qualcuno, perché evidentemente ci sarà. Un altro sondaggio a proposito di Barcellona, sul Mondo Deportivo invece, cioè sul quotidiano sportivo concorrente, vede favorito Luis Enrique, che per il 42% dei tifosi del Barça dovrebbe essere l'erede di Guardiola, sempre nell'ipotesi che a Barcellona considerano grosso modo come una iattura, ma insomma sempre nell'ipotesi che Guardiola decidesse di lasciare. Roberto, Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Prego? Buongiorno a lei. Volevo chiedere, per quanto riguarda appunto le dimissioni di Idea, innanzitutto non ci abbiamo capito nulla, ma secondo lei quale potrebbe essere il sostituto ideale di Rea nel breve tempo e magari più sul lungo tempo, quale vede come candidato alla panchina della Lazio? Quindi, no, il catalogo aggiornato degli allenatori con la mentalità vincente, però certamente uno di loro, non questo non può essere in discussione. Io credo che cominci a essere un po' impegnativo sostituire un tecnico a, non dico a metà girone di ritorno, ma insomma comunque a girone di ritorno inoltrato, perché Adesso vincendo perdete, insomma, il meglio direi che se n'è andato, no? In una scrematura possibile, anche perché non è che in Italia gli allenatori se ne cambino pochi, eh? Credo che siamo a 13 ormai panchine saltate, quindi diciamo che molte alternative nel frattempo sono state, si sono accasate, no? E quindi non lo so, sinceramente credo che non sarà una scelta facilissima. Uno che sta andando bene, non dico meglio del previsto, ma almeno in linea col previsto, è certamente Montella. Sia per come il Catania gioca, sia per come ha dato filo alla torcere a un sacco di grandi squadre quest'anno, giocando anche un bel calcio offensivo e migliorando la qualità di certi interpreti offensivi, a cominciare da Berghesio e non solo, ma anche perché adesso, insomma, mi pare ci siano anche risultati. La vittoria di ieri del Catania a Siena ha di nuovo cambiato abbastanza nettamente le carte in retrovia, perché sembrava che l'allungo del Lecce potesse tirar dentro anche Bologna, anche Catania, altre cose, e invece al momento sta mettendo in difficoltà solo il Siena, per cui oggi come oggi sono quattro squadre che lottano per salvarsi e una di loro soltanto si salverà. Poi vediamo se si riamplia il quadro. Montella dopo la vittoria di ieri a Siena. Ma io credo che i ragazzi meritassero questa posizione di classifica, quindi questa vittoria ci riproietta una posizione di classifica, ripeto, dove i ragazzi meritano di stare, viceversa sarebbe stata una classifica, voglio dire, oggi pomeriggio non ci piaceva, avendo due gare da recuperare, ma comunque non ci piaceva, non dava merito a quanto stessero facendo, quindi soprattutto questa vittoria è importante per la classifica, è importante anche per quello che hanno dimostrato fino a questo momento. Vediamo se c'è spazio ancora per un ultimo ascoltatore, Alessandro da Lucca, rapidamente. Sì, molto rapido. Dica. Buonasera, dottor Garanzini. Una riflessione tecnica sulla partita di ieri e sulle scelte di Ranieri. Allora, se mi può spiegare perché ha messo in campo Zárate e forse non è meglio Muntari di Palombo? Grazie, buonasera, dottore. Guardi, tra Muntari, Palombo, Corio, questo non sono in grado, devono essere è chi li vede tutti i giorni che può decidere. Se Muntari, io credo che avesse mentalmente chiuso con l'Inter da parecchio tempo. Le scelte di Palombo, di Poli, di altri sono scelte che non so se appartengono a Ranieri o al mercato. La scelta di Zárate ieri sera, l'ho già detto prima, o Zárate che dir si voglia, è indubbiamente una scelta come minimo discutibile. Ranieri ci ha provato, evidentemente questa secondo me è una scelta che testimonia della sua vera difficoltà oggettiva di questo momento, perché è una scelta un po' estrema, e quando in una partita di quelle caratteristiche, no, oltretutto un'andata, ti giochi una carta come Zárate, vuol dire che davvero non sai più tanto dove provare ad arrampicarti. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione, grazie a tutti, buon pomeriggio.